C'è un'impronta ben precisa sia in comune che in città metropolitana. È così e stiamo anche decidendo di valutare l'impatto che hanno le nostre politiche pubbliche prima di metterle in atto, pensare a ogni singola politica pubblica, non l'effetto che ha avuto nel ridurre e aumentare il divario di genere, ma prima ancora di metterla in campo pensare a che effetto potrà avere. Andare a redistribuire il carico di lavoro di cura è correggere un sistema che nella nostra società è strutturalmente basato sul fatto che nella nostra società le donne portino avanti un lavoro di cura non pagato. Questo è il modo in cui si regge la nostra società in questo momento. Il sistema capitalistico in cui viviamo si basa esattamente su questo. Quindi andare a incidere su questo, a correggere, a riequilibrare il sistema è una questione di lotta alle disuguaglianze. Anche in un territorio virtuoso come Bologna, dove chiaramente c'è altissima occupazione femminile rispetto alla media nazionale, se andiamo a vedere i congedi che si prendono, i permessi per curare le persone anziane nelle proprie famiglie o curare i figli, i part-time involontari, vediamo chiaramente che sono tutte scelte prese dalle donne nella nostra comunità, oltre il 77-79%. Quindi andare a incidere, andare a lavorare su questo significa redistribuire la capacità di progredire nella nostra società e redistribuire capacità di opportunità e costruzione, ridarla alle donne della nostra società.